Sono praticamente, sono diversi anni che gira per il mondo quest'opera, è un'opera itinerante, ritorna in Italia dopo diversi anni e da quando Davide ci ha parlato di questo tour non aveva idea di quali città coinvolgere in questo tour, per cui io e Angela siamo state le prime a dire assolutamente Bologna non deve mancare, anche perché ricordiamo ai spettatori che l'Italia di Bologna ha concesso la cittadinanza Ah, onoraria certo. a Julian Assange Non tanto e tempo fa. questo non tanto tempo fa, 16 esatto, febbraio. il 16, Febbraio. 19 forse, prima del 20, comunque a febbraio, per cui noi cercheremo di coinvolgere l'amministrazione comunale in queste 2 giornate di tappa Io lo dell'opera a vedo domani, Bologna. il sindaco glielo ricordo. Bravo, bravissimo, Ok. bravissimo. Noi abbiamo mandato un invito sia al sindaco Lepore che alla vice sindaca Emily Clancy e speriamo che ci facciano visita perché noi installeremo quest'opera il 13 e 14. Sì. Giugno. Ah. Ok, il 13 giugno ci sarà l'inaugurazione alle 11:30 con una conferenza stampa e noi auspichiamo che il sindaco Lepore e la vice sindaca Clancy vengano in Piazza del Nettuno a rendere omaggio a quest'opera, a parlare della cittadinanza onoraria e in qualche modo a prendere posizione sostenendo la liberazione di Assange contro questo accanimento ingiusto nei suoi confronti. Per cui è un'opera che abbiamo fortemente voluto. L'opera è partita con la sosta, una tappa, diciamo proprio una sosta, è stata una tappa a Milano, dopo è stata quasi una settimana a Napoli, una settimana a Roma, salirà a Bologna per 2 giorni, dopodiché andrà di nuovo a Milano per il weekend dove c'è questo festival organizzato dalla Weird e dove sarà presente anche Stella Assange, che è la moglie di Julian Ah, Assange. fantastico. Dopodiché, insomma, almeno il tour italiano per quest'anno sarà finito. L'opera è composta, come dicevi tu prima, da 3 statue di bronzo che sono rappresentate da Julian Assange al centro. Sul lato destro c'è la figura di Bradley Manning e sul lato sinistro c'è la figura di Edward Snowden, tutti e tre in piedi su una sedia e ciascuno su una sedia. Poi c'è una quarta sedia vuota, la cosiddetta open chair, che praticamente invita chiunque voglia prendere posizione a sostegno di Assange a salire sulla sedia e a esprimersi in qualche modo, in qualsiasi modo. Per cui noi avremo queste 2 giornate con questa open chair, lasceremo la possibilità di salire a chiunque voglia farlo, a chiunque voglia prendere posizione, esprimersi e esprimere il proprio parere su questa vicenda. Ma non sarà solo questo, saranno 2 giornate molto ricche perché saranno intervallate anche da musica, parole, danza, flash mob, ci sarà un po' di tutto e noi avremo Moni Ovadia presente con noi, avremo la deputata Scari, l'euro appena confermata, l'eurodeputata Sabrina Pignedoli e poi ancora avremo Alessandro Bergonzoni. Sì, stavo guardando l'elenco perché è bello lungo. Ah, certo. Inoltre hanno manifestato il loro interesse anche alcuni studenti del liceo scientifico Copernico che nonostante la scuola sia finita si sono resi disponibili a venire a leggere alcune letture, avendo studiato insomma un pochino la vicenda di Assange durante l'anno scolastico, si sono resi disponibili per venire in piazza. E poi ci saranno altre studentesse e altri studenti dell'Accademia. Non so se ho dimenticato qualcuno, ci sarà anche Amnesty International, ci sarà il presidente Ampi di Calderara di Reno. Vi Qui volevo direi chiedere, che ma questo Free Assange Bologna è un comitato, un'associazione? Che cosa, cioè, Free Assange esiste come entità anche a livello nazionale? Perché io vedo gli account Instagram, ma come sappiamo, cioè, un account Instagram è un account Instagram. Cosa siete voi Siamo giurisdizionalmente? Liberi cittadini, liberi naturalmente. cittadini che si sono dati da fare per far conoscere alla città Assange, perché il personaggio di Assange, diciamo, è ignorato dai Ah, media. certo. In televisione, se si parla di lui, se ne parla in termini negativi. Ci fu un famoso film hollywoodiano creato apposta per mettere Per quasi in giustificare. ridicolo questo personaggio, quindi descrivendolo come un triste narcisista, invece non è assolutamente una persona di questo tipo. Quindi bisogna fare controinformazione, cioè informare informare e sensibilizzare, soprattutto tra i giovani. Infatti, come diceva Fulvia prima, diverse scuole sono venute a vedere il cinema Odeon nell'ambito del... Io organizzo il Festival Young About, che è un festival di cinema rivolto alle scuole di Bologna. Sono venuti a vedere un bellissimo documentario, Hacking Justice, e ne sono rimasti così impressionati che hanno scritto a scuola le recensioni su questo film. Poi noi abbiamo selezionato un gruppo di studenti per il premio migliore recensione, mm-hmm. quindi loro verranno a leggere in Piazza Nettuno le loro recensioni su questo film che parla di Assange.